ti ho fatta soffrire così. Sono stato con te un ingrato perché mi acceco la gelosia. Di annientarti cercai, ad un tratto provai un istante di follia. Perdonami per l'amor che c'è stato fra noi. Ti supplico per quei di che scordare non puoi. Non farmi soffrir, non lasciarmi morire con rimorso nel cuore. Imploro il tuo perdono in nome dell'amore. Io sembro un povero mendicante che vuol la carità, e in elemosina chiedo solo da te pietà. Batto alla porta della tua casa ed attenderò che tu mi conceda il perdono per non lasciarti più. Lasciarmi morir col rimorso nel cuore, imploro il tuo perdono in nome dell'amore. Non lasciarmi morir, non farmi soffrir col rimorso nel cuore, imploro il tuo perdono in nome dell'amore.